Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir. Tra le maniere che avevamo per lasciarci con voi nella fine di questo anno in Fausto, che speriamo ci lasci tempo di felicità per quello che verrà, è rifare un excursus assieme a Giuseppe Sansonna, che è la persona che mi ha sempre seguito in questi ultimi anni, in una operazione molto particolare, che è quella di osservare la società attraverso il riflesso nel cinema. Di solito si fa esattamente il contrario, si analizza il cinema e si vede quali sono i significati sociali del cinema. Noi abbiamo fatto un'operazione scellerata quanto volete, ma che ha sempre è stata foriera di grandi sorprese. Abbiamo cominciato a prendere un tema, abbiamo visto come lo trattava il cinema, abbiamo aspettato che dal pubblico ci venissero sollecitazioni. È stato il momento di più felice scoperta di storie umane. Giuseppe Sansonna, buongiorno, buongiorno innanzitutto. Tu che ne dici di quello che abbiamo fatto in questi anni, di cui oggi diamo una sintesi? Oggi diamo una sintesi analizzando un genere particolare che affonda le sue radici negli anni 50, il melodramma lacrimevole, che poi negli anni 70 sfocerà nei rigagnoli limacciosi del Lacrima Movie. Amedeo Nazzari è l'eroe di questo genere. Amedeo Buffa, detto Amedeo Nazzari, stentoreo come Otello, ottuso come Otello, che grazie alla sua incomprensione degli eventi crea lui stesso la disgrazia, e poi le lacrime arrivano inevitabili perché non c'è più nulla da fare, tutto è compromesso e quindi non si può che piangere. Questa è l'essenza e la radice del melodramma, in cui le eroine spadroneggiavano, come Yvonne Sanson, sua eterna partner, piuttosto pingue, che si alternava in ruoli da prostituta, ma per costrizione, o suora, insomma, angelicata. C'era sempre una condanna al gioco, l'emarginazione comunque e l'allontanamento da tutti i piaceri, o per coatta condanna peccaminosa o per scelta altrettanto coatta di vita di contemplazione. Ora, quella del Lacrima Movie è una trasmissione che abbiamo recentemente trattato. Guardate, questa mattina non si fanno repliche, semplicemente siamo andati a recuperare quegli ascoltatori che non hanno avuto modo di esprimersi nel corso di singole puntate dedicate ai più svariati temi. E in particolare nei Lacrima Movie c'era un ascoltatore, l'ascoltatore Mauro, che non ebbe tempo di dire quello che lui voleva, e questa mattina diamo a lui questa occasione. Mauro, buona giornata. Buona giornata a lei, Gianluca. Buona giornata. Cos'era che le era rimasto nel gozzo da dire il giorno dei Lacrima Movie? Questa mattina la faremo felice. Ah beh, guardi, io ricordo appunto questo polpettone incredibile in bianco e nero ancora, con mia zia e una cugina da sposare, tutte e due zitelle o cosa, che mi costringevano a guardare questo film veramente atroce, e con tanto di lacrime, diceva, perché pensa, cosa succede, cosa non succede o cosa. Il film qual era? I figli di nessuno. I figli di nessuno, con Amedeo Nazzari. Fermo un attimo, le ridiamo un attimo un salto nel tempo, si troverà accanto alle sue zie torturatrici a guardare come fanciullo coatto e come estirpazione radicale di ogni suo sogno fanciullesco questo film. Luisa. Non mi chiamo più Luisa. Soltanto adesso ho saputo. Poldo, Don Demetrio mi hanno detto tutto. Io non volevo, non potevo credere. Ma adesso che ti vedo mi sembra di impazzire dalla gioia, come mi è sembrato di impazzire dal dolore il giorno in cui ti ho creduto morta. Luisa. Il mio nome ora è Suora Addolorata. Ma no, Luisa, tu l'hai cambiato tra noi. Tu sei sempre Luisa, la donna che io ho amato e che amo. Ecco. Non c'era, Mauro, secondo lei, una sottile ambiguità in questo Nazzari che, dopo aver condannato all'eterna clausura, ma non per una scelta libera e leggera, ma semplicemente perché per salvarsi dalla vita reietta a cui lui l'avrebbe condannata, come dirle: ma tu per me sarai sempre Luisa, mostrando un velatissimo senso di residuo desiderio. Ma le sue zie notavano questa accezione così lubrica in un film del genere? Ma sì, poi insomma i personaggi erano tutti molto molto irreali, non solo Amedeo Lazzari, lo stesso bambino che a un certo punto lavora come lavoratore minorile in una cava, insomma delle cose veramente... Cioè, hanno lavorato i bambini nelle cave, ma non certo nell'Italia degli anni 50, forse sì, dirò una bestialità, ma diciamo che era già iniziava a entrare felicemente condiviso il concetto che l'infanzia vada tutelata nel suo diritto di essere bambini. Quindi un bambino lavorava come spaccapietre in questo film. Giuseppe Sanzonna, di cosa si tratta? Questo è La fine di nessuno del 1951, dell'eroe del genere Raffaello Matarazzo, che tutti ricordano piangere calde lacrime dietro la macchina da presa, perché lui mentre creava questi abomini meravigliosi e intricatissimi, come degni di trame shakespeariane, che si infrangevano sempre su nuovi accadimenti, nuovi imprevisti, appunto il bambino che lavorava nella cava era un incidente ulteriore per accavallare lacrime, accavallare sofferenze, accavallare intrichi e nuovi cunicoli drammaturgici, e proprio lui piangeva, quindi ci credeva in questo assurdo, in questo baldacchino gigantesco alla panna che aveva creato, ci credeva e quindi piangeva, cioè, anche lui. L'idea era suscitare una reazione pavloviana nel dare il singulto allorché si spegnesse il singulto precedente, una sempre piangere. Ha fatto effetto anche su di noi, ti ricordi? Certo. Piangemmo a suo tempo, come piangemmo sulla puntata sugli animali assassini. Devo dire che insisté fortemente questo genere di cinema nei nostri animi esacerbati, induriti da una vita quotidiana. Quindi lei non ha avuto, Mauro, nessun tipo di trauma che si porta fino all'età adulta, quindi è felicemente uscito. No, ma non solo, guardi, in questo momento mi trovo nel cortile della scuola dell'infanzia di mia figlia, sì. Sono venuto a prenderla, finiti gli orari, e vederli tutti ridenti, che corrono, che giocano, cosa. L'idea che questi bimbi possono essere costretti, come ero costretto io, a vedere questi polpettoni veramente ignobili o cosa, io trovo che fosse un crimine contro l'infanzia, un crimine contro l'umanità. Lei quindi, guarda, con tutte le lamentele... C'erano anche adulti che venivano costretti ad accompagnare i figli a vedere queste cose. Ma diciamo, c'è questo senso catartico condiviso che occorre andare a vedere questi film per rendersi conto di quali sono i mali dell'umanità, di quanto sia triste la vita, di quanto poco bisogna indulgere nei piaceri del quotidiano, perché la vita è fatta di disgrazie. Dicevo, qualche passo avanti l'abbiamo fatto, comunque, per quanto possiamo lacerarci le vesti nei nostri disgraziati momenti, perlomeno raramente si portano bambini a operazioni di tortura collettivamente condivisa come questi. La ringrazio. Io mi chiamo Marcellino, pane e vino. Zitto. Marcellino era diventato robusto e vivace. Aveva dato un nomignolo a ciascuno dei frati e ormai anch'essi non si chiamavano più tra di loro fra Tommaso, fra Giuseppe, frate Francesco, ma come li chiamava Marcellino? Fra Malato, frate Porta, fra Pappina, fra Dindon, a seconda di quello che ciascuno faceva in convento. Era la gioia e il tormento di tutta la comunità. Era buono come il pane, ma ogni tanto ne combinava una delle sue. Sogna, sogna Marcellino, già comincia... Povero Marcellino, cosa mai potrà sognare con Fra Dindon che incombe alle sue spalle? Giuseppe Sanzonna, questo è un film che fece epoca, però. Sì, indubbiamente questo è forse il capostipite dei Lacrima Movie. Siamo nella Spagna franchista degli anni 50 e questo film racconta di questo bambino che nasce appunto orfano, viene portato in questo convento, allevato dai frati, allevato da queste sorte di sette nani, perché hanno nomi sette naneschi, e cresce però col desiderio di rivedere la mamma che non ha mai conosciuto, e viene implacabilmente accontentato alla fine del film da Cristo in persona, che lo chiama, cioè in articolo mortis, proprio quando sta per morire vede la mamma. La vede perché muore. Perché muore. Ascende al cielo. Che vuole. Cioè, il desiderio, volevi questo e sei stato accontentato, insomma, fino in fondo. E questo film, ricordo, dunque, ero ragazzino, il calendario di Frate Indovino, produzione artigianal fratesca tipica della zona Umbra, ci fu un anno che fece il calendario di Marcellino Panevino e noi piccolini piangevamo, ci raccontavano questa storia di questo povero bambino circondato dai frati, quindi già aveva una vita abbastanza perigliosa e per la sua integrità piuttosto da doversi difendere giorno per giorno col coltello tra i denti, alla fine muore pure, e trovo fosse una cosa tristissima. Ma grazie a Dio ho condiviso questa mia infausta esperienza fanciullesca con l'ascoltatrice Francesca. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Non riesce a trattenere anche lei la commozione pensando a Marcellino Panini? Sì, sì, l'ho rivisto recentemente e mi veniva ancora il magone, guarda. Povero bambino. Povero bambino, sì, sì, sì. Ma guarda, io vedevo questi film, ce li facevano vedere mentre noi frequentavamo il catechismo. Quindi in ginocchio sul Gran Turco? Ecco, sì, esattamente. Certo. Questo qui mi è rimasto impresso insieme a un altro film, si chiama Bernadette, che era proprio sulla Madonna, sulle apparizioni della Madonna, una cosa bianco e nero, me lo ricordo bene. Però erano dei film che avevano un senso, in quel contesto hanno un senso. Era l'equivalente di una sorta di storia dei santi o storia di esempi di rettitudine fanciullesca, mentre i bambini facevano la preparazione per la comunione, per la cresima, certo, il catechismo. Certo, sì, quindi sì, erano sì. Un supporto didattico dei tempi, quello avevano a quei tempi, è vero, non certo. C'era una scelta di prodotti multimediali raffinati come oggi si trovano nelle librerie specializzate. Scusi un attimo, Giuseppe Sansonna era la prosecuzione in celluloide degli ex voto, insomma, tutto sommato poi le chiese erano il massimo luogo della rappresentazione attraverso i secoli. Il cinema non è stato che un approdo della chiesa, se vuoi, attraverso anche per la claustralità del luogo, l'apparizione di una liturgia che ha qualcosa di fortemente spettacolare. Questo era un cinema come cilicio, tutto sommato, che vissuto anche come espiazione di una colpa, quindi le lacrime e anche quella dolce sofferenza erano un modo, una necessità da attraversare. Ecco, quello che però magari è il contributo degli ascoltatori in questa nostra chiave, se vogliamo, divertita, dissacratoria, come vuoi, è il contesto, perché i manuali di analisi del cinema potranno raccontare quello che stiamo raccontando adesso, fare un'analisi del film, ma i contesti in cui questi film si vedevano e si usufruivano, questo solo persone come Francesca hanno vissuto questa esperienza, possono farlo. Ci può raccontare qualcosa di più, Francesca, della situazione, della location in cui venivano poi proiettati questi film e cosa succedeva, cosa accadeva dopo e cosa accadeva durante? Allora, mentre li guardavamo, riempivamo fazzoletti e fazzoletti di questi col nostro pianto. E eravamo comunque, era un pianto, diciamo, che alla fine ci faceva bene, ecco. Diciamo che uscivamo di lì, mi ricordo che mia mamma diceva: mamma mia, ma cosa vi è successo? Ci venivano a prendere le madri dal catechismo, ma cosa è successo? È successo qualcosa? No, tutte contente, eravamo come diciamo rinfrancate da questo pianto. La gioia delle lacrime e della sofferenza. Sì, eravamo contente, ci veniva quasi la voglia, ripulite, ci veniva quasi la voglia di farci suore, di entrare in monastero. Quindi diciamo funzionava come operazione subliminale di esatto, sì. Il cinema è l'arma più potente, diceva Mussolini. Era quasi una specie cioè ci veniva veramente voglia di dedicare la nostra vita. Beh, erano bei film, erano fatti bene. Veniva desiderio, bene, sì. Sì, abbattevano quelle che sono, diciamo, le tentazioni, le infatuazioni del mondo e della vita terrena, dando il senso alle cose profonde. La religione, questo è giustamente. Io non posso essere preso molte volte per un irrisore nato, ma io mi sembra giusto che in quel contesto questi fossero i film. Questo si insegna, non esistono mediazioni. Se un ragazzino fa il catechismo e gli insegni la via della mortificazione come via di salvezza, è giusto far vedere esempi di film del genere. Le ragazze sentivano felici, erano tutte farse suore, ma quello era lo scopo, probabilmente, di dare l'idea di una vita spirituale che possa essere vissuta intensamente, profondamente. Quello era il massimo bersaglio. Oggi non vedo corrispondenze, nemmeno nelle fiction dedicate, nelle storie dei papi, nelle storie dei santi. È tutto fatto all'acqua di rosa. Allora erano film drastici, erano inequivocabili. Devi morire, soffrire e avrai la vita eterna. No, non ci si sbaglia, questo è il messaggio. Oggi ci si gira intorno e diventa relativizzato questo messaggio. Sei d'accordo, Giuseppe? Sì, poi questo film si avvaleva, Marcellino Panemino si avvaleva dalla simpatia innata di Pablito Calvo. Negli stessi anni, bisogna dire, ricollegandosi al discorso sulla religione e sul cinema che facevi tu, Buñuel, un genio assoluto, spagnolo, appunto, quindi nel stesso contesto di Marcellino e Panembino, elaborava capolavori come Nazarin, ovvero questa figura di prete che scopre, urticandosi, la durezza della vita, la durezza della società, anche davanti alla provvidenza di cui lui si fa portatore, scopre quanto ci si possa spellare contro la ferocia di un mondo gerarchizzato da un forte potere e da una sprezza sociale. Però non dimenticare, questa è una lettura in cui il surrealismo attingeva queste radici del sacro. Qui stiamo facendo il Cineforum adesso, in Tontici fa subito la sua scritta, dice smettetela di farvi le pippe mentali, ma è vero, il surrealismo attinge in questo sostrato favoloso del barocco, infatti in Spagna ci furono esempi fortissimi di attenzione a queste cose, e ne trova degli elementi comunque di totale surrealtà. Andiamo avanti con la nostra rassegna di Lacrima Movie. Puoi parlare adesso, da dove vieni? Mi chiamo Bondarev, comunichi allo Stato Maggiore, al 51, che mi trovo qui al suo reparto. Chi è il 51? E che Stato Maggiore? Di quale arma? Zona militare NC49550. Togliti quella roba bagnata e asciugati bene, presto. Togliti anche i pantaloni, sei bagnato fradicio. Che cos'hai sulla schiena? Ti ho chiesto che cos'hai sulla schiena, rispondi. Questo non la riguarda. E poi non mi dia degli ordini. Il suo dovere è riferire allo Stato Maggiore che mi trovo qui. Solo loro potranno spiegarle. Taci, so io quello che devo fare. Non ti rendi conto dove ti trovi? Il tuo nome non mi dice niente. Resterai qui finché non ti decidi a dirmi chi sei e da dove vieni. Giuseppe Sansonna, questo sembra un personaggio tratto da uno dei racconti mensili del libro Cuore. È un tamburino sardo, è un piccolo giovane combattente che rivolge l'impavido e in plume petto all'offesa della crudeltà dell'uomo e del soldato. In realtà cosa accade? Questo ce lo vedo io, ma non so se è così. Siamo sulle rive del Dnieper e siamo nell'immaginario liquido e dilatato nei tempi e nell'onerismo di Tarkovsky, ovvero questo è l'infanzia di Ivan. Siamo nel 1962 nell'URSS khrushchevana, che deprecava questo tipo di formalismo, voleva immagini concrete, voleva la durezza e l'oggettualità della realtà presentata come tale. E qui c'è questo ragazzino che è tardivo come Lacrima Movie, però già cominciamo a uscire dalla scia fatata del Lacrima Movie, dei melodrammi, se vuoi, ma questo è un film che si colloca proprio al di fuori, è un film fortemente autoriale, ci rimanda a proprio al cineforum, appunto. È un cinema, Scolpire il tempo si chiama il libro in cui Tarkovsky ha raccontato se stesso e la propria poetica, e la storia di questo. Però quali sono gli elementi in comune con Lacrima Movie? Questo ragazzino in realtà è una sorta di soldato aggiunto, infatti non viene creduto nella scena che abbiamo ascoltato, non viene creduto in questo suo ruolo, però si lancia eroicamente e mostra con la sua vita l'assurdità della guerra, e lui è assurdo perché è un, appunto, si pone come eroe pur essendo un giovane imberbe ragazzino. Ma muore alla fine. Finirà impiccato. Certo, minimo. Il destino è comune a quello di Renato Cestier nell'ultima neve di primavera, et si media, però l'intensità è tutt'altra. Vuoi mettere un capestro con una morte di polmonite o sulla giostrina funerea o il soffocamento da un mal sottile, è molto più cruenta questa cosa. Ecco, questo film, L'infanzia di Ivan, che è un film capostipite del genere, Lacrima Movie, ha fortemente impressionato l'esistenza di un nostro ascoltatore, Riccardo. Sì, salve. Le abbiamo dato dei palpiti, dica la verità. Allora, io in effetti il film era un gran film, solo che il mio rapporto nacque che all'epoca, quando la Rai non aveva concorrenza e quindi in prima serata davano anche film, insomma, di un certo impegno. Cioè si becca... non so se questo era il ciclo i film del disgelo, che mandavano tutti questi film. Il film del disgelo. Perfetto, a me piacevano tantissimo, anche a me mettevano davanti, non c'era altro, con una vecchia bisnonna che non capiva nulla, che ogni tanto diceva che è sta roba, e me stavo lì e guardavo i film del disgelo. E mi ricordo questa sigla ancora, se da tutta la neve, il ghiaccio, il rigagnolo d'acqua. E che si scioglieva, e questo era il film del disgelo. E io lo vidi questo con mia mamma, come insomma si usava, che insomma c'era solo questo, quindi si guardava questo film. Nel momento dell'impiccagione del piccolo Ivan cosa faceva? No, ma non mi ricordo che si vedesse l'impiccagione, era che alla fine l'ufficiale aveva le foto, diciamo, di quelli, dei documenti di chi era caduto, e prendeva anche. Ah, lo lascia immaginare, rimane obscena la impiccagione. E poi glielo spiegava. E allora guarda, mi ricordo mia mamma singhiozzando tutto il tempo, una cosa veramente drammatica, e quasi quasi io con mio fratello, che ci sentivamo colpevoli del fatto di vivere in un'epoca in cui l'infanzia non ci veniva rubata, ma tutto sommato la era un po' lei penso che stia parlando degli anni 60, fine anni 50, fine anni 60, fine anni 60. In televisione, credo. Sì, perché il film è del 62, quindi è arrivato. anni 60. Dietro, nel 68, devo dire, a quei tempi però la RAI era l'avanguardia, perché avere, sì, sì, no, era una vera operazione a servizio pubblico mandare in prima serata questi film, che mai avrebbero visto gli italiani se non nella televisione pubblica, se non in alcuni circuiti molto particolari. Allora esisteva il Cinema d'Essai, ma mandarli in prima serata, in effetti aveva un senso. Vedi, i nostri ascoltatori a distanza di decenni ancora ricordano il vero senso di catarsi familiare, la bambina con la nonna che si sente il desiderio di farsi suora, perlomeno di aprirsi la vita spirituale. I bambini si guardano in faccia, reduci naturalmente di un certo tipo di educazione, figli dei genitori che hanno fatto la guerra, quindi anche lei, come noi quasi coetanei, saremmo stati allevati: mangia questo perché noi abbiamo fatto la fame, mangia perché noi avevamo la borsa nera, quando c'era il bombardamento mangiavamo i topi e le patate, quindi avevamo dei sensi di colpa nel DNA per essere nati al di fuori della guerra. In più ci mettiamo il piccolo Ivan strangolato e impiccato, è chiaro che uno dice: mamma mia, perché sono vivo? Cosa mai ho fatto per meritarmi la vita? Ecco, però ecco, devo dire che, come ha detto lei giustamente, all'epoca la RAI faceva, diciamo, anche cultura. Sì, questa c'era una grande scelta. Le immagini, il funzionario RAI che oggi ci immaginiamo con i riccioli e i boccoli tinti sulle spalle, che va in giro a fare i casting di ballerine di fila o di cialtronate varie, allora è un signore che aveva studiato, ha letto 4 libri e aveva girato un po' il mondo. Oggi ha la camicia aperta col pelo brizzolato in evidenza, insomma, con il medaglione d'oro, passeggia da vanni lì sotto la RAI. Comunque no, ecco, invece nell'infanzia di Ivan la morte rimane obscena e fuori, quindi questo contravviene un po' alla regola di quelli che saranno poi i lacrimi movies a seguire, in cui la morte invece è molto calcata, molto rappresentata, appunto. Sì, anche in maniera, dietro c'è un genio del cinema, non c'è un regista che deve creare del singulto a comando. Allora ringraziamo i nostri ascoltatori. Giuseppe Sansonna resta con noi, avremo modo tra qualche istante di continuare del recupero degli immaginari cinematografici che noi abbiamo durante l'anno, ahimè, frustrato, tagliato e castrato i nostri ascoltatori, e oggi invece diamo a loro, in coda l'anno, libera possibilità d'espressione. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Questa è un'immagine in diretta della vasca dell'anaconda regina. Completamente immobile, proprio come la mia prima moglie. Non si lasci ingannare dalla sua indolenza. È mezza tonnellata di pura potenza stritolante. Ripeto, come la mia prima moglie. Lieto di vederla, signor Murdoch. Non l'aspettavo prima della prossima settimana. Come sa, professore, sono un uomo impaziente. Beh, signore, il nostro staff lavora giorno e notte e so bene qual è la nostra scadenza. Bene, perché io la pago per avere dei risultati. Come lei sa, abbiamo sintetizzato e prodotto con successo un estratto di un'orchidea vermiglia. La nostra paziente tollera il siero esattamente come i serpenti allo stato brado, senza alcun effetto collaterale, e non mostra segni di invecchiamento. Il siero sintetico è pienamente efficace. Rieccoci, sì, con Giuseppe Sanson a recuperare gli ascoltatori che avrebbero voluto esprimersi in brandelli cinematografici che hanno dato senso alla loro vita, o rispecchiavano momenti vissuti alla loro vita, o che loro simbolicamente assimilano a loro esperienze. Questa era un'altra puntata in cui parlavamo degli animali cattivi. Esiste un filone molto preciso di cinema, io da Godzilla e i dinosauri post-atomici del Giappone bombardato, in cui metteva tutte le sue paure, le mutazioni fino allo squalo e via dicendo, ne parlammo a lungo. Beh, di questi animali cinematografici sempre cattivi, sempre abietti, abbiamo classificato alcuni che, ricordo ancora la puntata, che sembravano proprio emergere dagli incubi dei nostri ascoltatori. Ricordi un signore fecondato da un ragno gigantesco, aveva lasciato 7 bolle sulla schiena con dentro le uova di ragno, lui ha ucciso questo ragno, un altro che aveva terrore dei serpenti, coi topi. Ogni ascoltatore aveva riguardo a questi animali delle esperienze da raccontarci. In particolare questo film, qual è? Di quello di cui stiamo parlando adesso. Questo è Anaconda, che ha avuto una lunga serie di sequel all'infinito, lunga quanto un'anaconda per l'appunto. È il maggior omaggio a questo cinema serpentiforme, lo fa negli anni 80 Verdone in Troppo Forte, quando racconta appunto la sua partecipazione a questo B-movie in cui, immergendosi nelle acque, poi uccide questa anaconda, poi prima di essere, dopo essere morso, è stato morso da questa, e quindi attraverso una serie di vaccini riesce a sopravvivere, perché ha degli anticorpi grossi come oranghi. Ma questo è un cinema che rimanda a una tradizione che ha sempre fatto parte dell'umanità dai tempi di Esopo, Fedro, ovvero il rapporto con la bestia. Come... Beh, un po' mi ricordo anche America Facce Tarzan, che solo di, dentro la marana finge una lotta con un coccodrillo che era un pezzo di un ramo secco. Certo, c'è l'eroismo recuperato attraverso questo, ma gli animali in fondo ci dicono qualcosa. Negli ultimi anni l'animale deve ribellarsi alla violenza che l'uomo ha fatto attraverso la scienza iniqua sulla natura, e quindi gli animali prendono corpo, ci guardano, ci osservano e ci puniscono per la nostra ecco, hubris. Nella puntata che è dedicata agli animali cattivi ci limitammo a esperienze dedicate a animali di uso comune, gechi, ragni, piccole bisce d'acqua, cani, ci fu una terrorizzata dai gatti. Soltanto un ascoltatore raccontò la storia di un suo nonno pugliese come te, che al largo con la barca insieme a un altro zio videro uno squalo grande come il cofano di una 127. Sì, una descrizione poetica memorabile. I due fari della 127, il metro di paragone, sì, della paura che veniva dagli abissi. Li rimasero tutta la vita traumatizzati. Sull'anaconda mai avrei detto che qualcuno avesse qualcosa da dire, e invece il nostro ascoltatore Massimo ha a che fare con anaconde o cose del genere. No, non esattamente. Pronto? Sì, sì. Salve. No, niente, io ho... Diciamo che ho avuto una specie di visione, non lo so dire, ma ho visto due serpenti praticamente, che poi qua li chiamano in Veneto carbonassi, sono dei serpentoni neri. Neri, no? Immagino, sì. Sì, carbonassi da carbone proprio. Ma l'ha visto o l'ha sognati? Ma no, li ho visti nel mio giardino. Ah. Questi due serpentoni erano avvinghiati su se stessi, tipo a vite. Come un caduceo ermetico. Sì, esatto, ma avevano uno sviluppo verticale, ma per circa un mezzo metro da terra. Cioè, si erano drizzati da terra. Si erano drizzati, praticamente era una viga. A presente nelle farmacie che c'è quelle... il caduceo, è il simbolo del dio Hermes, che era anche il patrono dei farmacisti, faceva varie cose, aveva in mano questo, che è un simbolo alchemico, tutti gli alchimisti rifanno quelli. Sì, quindi... ma guardi, le assicuro che vederlo dal vero, vedere questi due serpenti che poi erano... a bocca aperta e così in verticale, che si guardavano e si muovevano leggermente, ma le assicuro che erano nella verticale. E poi io sì, un etologo direbbe che la danza d'amore dei serpenti. Assolutamente sì, cioè, io mi sono avvicinato perché poi non ho neanche una gran paura in effetti di questi tipi di serpenti, perché non è che siano, ma sono comuni, anche da piccolino ci giocavo un po', ma questi erano veramente grossi. Mi sono avvicinato e si sono sciolti. Sono proprio una cosa, proprio come il burro, sono sciolti e poi sono finiti dentro un pozzetto, così basta. Se ne sono una andati. Settimana dopo, non è finita, una settimana dopo uno di questi serpenti praticamente è entrato dentro casa di mia cognata in fianco, che avevamo una bifamiliare. E cosa le ha fatto la cognata? Niente, gli è corso per la cucina, era proprio uno di quelli perché era parecchio grosso. E voleva vendicarsi, no? Lei l'aveva disturbato nella sua danza d'amore e lui si rifaceva sulla sua cognata. Non lo so, solo che mia cognata ha urlato come una pazza. E chi ne fa? Il serpentone nero che fine ha fatto? E niente, è scappato fuori, ha aperto la porta, poi suo marito... Cioè, con le sue zampine ha aperto la porta e sì, è uscito. Sì, se n'è andato e è ritornato dentro il pozzetto. Ma finita la storia. È andata bene a suo cognato, che poteva avere la terribile onta di essere tradito con un serpente nero. Quindi. Però in tutto questo lei, non sono io che devo dirglielo, dovrei attingere ancora una volta alla sapienza del nostro amico Beppe Neri. Esiste probabilmente un rimosso, una paura dell'uomo nero, non si sa bene, qualcosa che in realtà insiste in quella particolare regione, che fa sì che questi serpenti guizzanti, neri, pulsanti, attentatori della virtù delle cognate appaiano con frequenza. Su cosa ne dici, Sansone? Ma io sono d'accordo, perché tutto questo bestiario attinge, in realtà è l'incarnazione delle nostre paure più remote, più antiche. Si parlava dello squalo grosso come una 127, con una descrizione accurata e commovente. Ma lo squalo stesso, anche lui ha una apparizione scenografica, con questa pinna che fende i frutti, con questi denti così sgraziati, informi, questa bocca larga pronta a sbranarci e a maltagliarci addirittura. E quindi tutto converge a questo, a queste collisioni. Il serpente fa strangola. La strangola, uccide, sì. Il serpente poi anche minaccia. È quello del frutto proibito, il serpente, certo, di Eva, il tentatore, la tentazione, fin dai tempi platanici. Mica era nero però quello. Vabbè, però era vuole dare una coloritura e quindi poi sono... Black exploitation. Come sta il mio bambino? Ha di nuovo fame. Qual è la temperatura della gabbia? 18 gradi. Ok, alziamola di 3 gradi e aumenta la miscela di sinanoli di 20 cc. Ok. Mi sta dicendo che una somministrazione regolare di siero ha prodotto questo. Per lo più volevamo vedere se i dosaggi... Stupefacente, 4 mesi fa entrava in una scatola da scarpe. Probabilmente è quello che prova ora. C'è la dirigenza. Lo so e ho intenzione di scoprire perché. Esattamente il contrario. È più grande, più veloce e più forte. E di sicuro più cattivo. Ci servono vasche di contenimento più grandi. Come hai saggiamente detto anche nell'altra puntata, c'è sempre la mano dell'uomo. L'uomo che maneggia la scienza in maniera dissoluta viola la natura, lo dico con ironia. E in questo caso avevano scoperto l'ingigantitore di anaconde. Faceva dei serpentoni giganteschi. Sembra le pubblicità che ti arrivano come spam in internet. E in questo caso cosa succedeva? E beh, qui cioè, siamo di fronte sempre al dilemma etico della scienza, appunto, che della vivisezione, cioè usare gli animali come cavie per verificare quanto si può agire, quanto si può salvare l'uomo dalle malattie e dalle asperità della vita. E la natura oltraggiata si vendica facendo l'anaconda gigante che spaventa tante persone, ma che in qualche maniera rende funesti anche i sonni dell'ascoltatore Stefano. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Lei, sono qua. L'incontro con l'anaconda come lo descriverebbe? Io ho avuto un'esperienza tipo il signore di prima. Ha visto però... anche lei i serpenti neri? Sì. Neri anche sì. I suoi? Questi erano, sì, sono qui da noi, si chiamano frustoni saettoni nelle campagne toscane. Ah. Il famoso frustone saettone. Ma è un biscione. Frustone saettone, con doppio accrescitivo. Diciamo, può arrivare anche ai 2 metri di lunghezza. E stanno drizzati, camminano dritti. Sì, ma sono spaventosi anche perché... Ci credo, è un drago. Sarebbe il biacco, chiamato, è un colubro, però ha un'aggressività, diciamo, un pochino particolare, perché... Quindi addentano, sì, non è? Sì, poi hanno un'altra cosa che è toccata a me, frustano, perché sono chiamati frustoni proprio perché... Io li ho trovati, siccome ho una paura fin dalla nascita di queste cose... di questi serpenti rettili, io quando li ho trovati sono rimasto, diciamo, paralizzato dalla visione. Quanti erano quelli che erano? Erano due. Sempre in coppia vanno, sì, come sì, carabinieri. Anche peggio. E poi uno frusta e l'altro ti infermo, come funziona? Ma no, è andata così che io purtroppo, quando li trovo, siccome mi dispiace dirlo, ma ne ammazzo 3 o 4 l'anno e farebbero molto comodo, molto comodo, io però ho il terrore di trovarmeli sempre lì d'intorno. Se io lo lascio andare quello, poi lo ritrovo e io purtroppo... Non... Diciamo, guardi, io devo dire da uomo di campagna che in realtà il frustone come la biscia ha una funzione importante nell'ecosistema della campagna, ma io da ragazzino tutte le volte che incontravo un serpente non vedo l'ora di prenderlo a pietrate, è istintivo, non c'è niente da fare, l'uomo il serpente gli dà addosso, è così. Purtroppo... È brutto dirlo, ci dispiace, ma finché uno non l'ha schiacciato, no, sarà poi l'educazione abbiamo avuto, ma al serpente va schiacciata la testa, per quello ecco, esiste. Sì, anche perché io venivo, diciamo, dalla montagna e lassù poi avevamo anche le vipere, insomma, e quindi quelle sono anche molto, cioè, più pericolose, perché questi possono dare un morso, ma hanno dei dentini come una sega a ferro, insomma. Massimo una proprio... frustata, ecco. Ecco, la frustata invece la esercitano in maniera abbastanza potente. Ma con la coda o con la testa la danno? No, con la coda. E la testa dove sta nel frattempo? La testa la dobrano come base, come posso dire, di piazzamento. Ah, come un calcio di Kung Fu di Bruce Lee. Mettono la testa giù e danno un colpo all'indietro. Perfetto. Sì, la testa rimane giù schiacciata, si avvolgono un attimo, poi rilasciano andare come una molla, diciamo, questa coda. Sì, a 2 volte ha tentato di darmi questo. Lei deve vedere il film Kung Fu Panda. C'è uno dei quattro supereroi del Kung Fu, che è appunto una serpe, fa esattamente questa cosa qua. Grazie, andiamo avanti perché abbiamo un'altra ascoltatrice, Antonella, che noi non facemmo parlare a suo tempo, ma oggi diamo ampia possibilità. Lei cosa teme? Io non temo nulla da questo punto di vista. Buongiorno. Nemmeno i serpenti? No, nel senso che io i serpenti li prendo quando per me gli animali si dividono in due: quelli che sono pericolosi, velenosi, e quelli che non lo sono. Quindi io sono stata morsa da piccoli serpentelli quando li ho presi, sapendo che non erano velenosi. Ho preso, dato che sono vissuta molti anni, sì, ma che li prenda a fare in mano? Potrebbe lasciarli strusciare a terra? Cioè, come mi piace guardarli, li disegnavo, me li portavo a casa, ma la prendi da vederli da vicino, se li portava a casa? Sì, li portavo a casa, li guardavo, li tenevo in un barattolone di vetro, dopo un giorno li andavo a riportare dove l'avevo trovati. Vabbè, lei... quindi mi hanno morso di tutto, il cane, il gatto, mi hanno morso i topi. E quando si tratta di andare a recuperare un animale qualsiasi, nemmeno i topi, ha paura nemmeno dei topi, è raro. No, il topo mi fa paura, nel senso che so che ha un che può trasmettere malattie, leptospirosi, malattie bruttissime, sì, sì, lo so, però quelli di campagna no. Guardi, ormai le campagne non sono più quelle di una volta, guardi. Io non farei la prova, visto che lei piace tanto essere morsa da animali feroci. Grazie, ci fermiamo un istante per le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Devo ammettere che c'è stato un tremendo arrembaggio per i biglietti di quella nuova rivista. Come si chiama, lo sapete? Un qualche cosa con un certo nome. Cara signora, una leggera pressione del dito sul grilletto di una pistola e due posti in prima fila saranno subito vostri. Avete avuto difficoltà nell'entrare in quei bei ristoranti con le poltrone di velluto? Tremende. È molto semplice, madame. Lo scappo del coltello è se madame si vuole accomodare da questa parte o no, passate sopra al corpo del cameriere. Grazie, ecco il vostro tavolo. Rupert, siete fenomenali. C'è un portiere d'albergo sul quale userei volentieri il coltello. No, scusa. Certo, Giuseppe Sanzonna, sembra che abbiamo fatto una scelta che vuole buttare nel secchio delle cose da dimenticare tutte le peggiori ore di questo anno passato, le ansie, le angosce, perché sembra che abbiamo mirato soltanto ai film che danno angustia, sofferenza. In questo caso questa era la puntata dedicata al male assoluto. Abbiamo detto chi per voi è il cattivo vero, quello vero, non quello finto, quello che poi c'ha una giustificazione, una motivazione per quello che ha fatto. Nessuno dei grandi mostri dei teleshow televisivi dedicati ai delitti più atroci degli ultimi giorni. No, un vero cattivo, un cattivo freddo, che è cattivo soltanto per il sottile piacere della cattiveria. In questo caso di cosa stavamo parlando? Questo film era Nodo alla gola, del 1948, del maestro Alfred Hitchcock, e qui si prefigurano due tipologie di cattivo. Quello di cui abbiamo ascoltato la voce doppiata era James Stewart, che è un professore, quindi che mostra la cattiveria da salotto, cioè le aberrazioni dette col cocktail in mano, ma in realtà non praticate nella vita. Fa il professore, teorizza una sorta di omicidio estetico, ammiccando, allietando le signore presenti. Si direbbe un cattivo maestro, con un termine che racconta una classe di professori realmente esistiti, erano gli istigatori del terrorismo armato, chiacchieravano dai loro salotti, alle loro terrazze, teorizzavano, e poi dei ragazzi di cui avevano massima fiducia andavano e sparavano la gente per strada. Esattamente, pronto a pubblicare appunto bestseller in questa direzione, però in compresenza nello stesso spazio fisico, perché questo film ha una particolarità: sembra un unico piano sequenza, è girato in un'unità di tempo e di luogo aristotelica, cioè questo attico di Manhattan in cui Manhattan diventa metafisica, cioè le luci della città assumono un contorno gelido, una cornice dura di questa azione che si svolge, perché il film inizia con l'uccisione di un ragazzo che è totalmente gratuita. Il caso particolare, nel 1948 in Italia in sede di doppiaggio si censurò la gratuità della questione, cioè fu dissimulata. In realtà nell'originale di Hitchcock questi due studenti si mettono in guanti bianchi, uccidono questo ragazzo senza nessuna motivazione. Ecco la purezza della cattiveria, il gesto estetico nicceano mal digerito, un Nietzsche mal digerito. Però erano i veri cattivi assoluti. Il cattivo assoluto è colui che lucidamente, serenamente nel suo quadro di riferimento, senza nessuna motivazione, compie un delitto, qualcosa di atroce, un atto di ingiustizia. E al tempo tu dici che invece, diciamo, la versione italiana volle dare una giustificazione a questo delitto. Sì, nel doppiaggio italiano si finge che questi due ragazzi siano stati provocati da questo ragazzo, che poi viene ucciso, per dargli almeno una sorta di causa-effetto. Nella realtà hitchcockiana non c'era questa causalità. In ogni caso, il cadavere viene deposto in un baule che rimane al centro della scena per tutta la durata del film, quindi tutti gli spettatori sanno che c'è un cadavere nel baule, e intorno a questo cadavere si consumano amenità da salotto. Appunto, arriva questo professore che pontifica e si pavoneggia sulla gratuità del delitto, e loro cercano in lui complicità e avallo. Questo è un po' il succo del film. E chi dovrebbe decidere chi è l'essere predestinato e di conseguenza una vittima adatta per l'assassinio? I pochi che hanno il privilegio di uccidere. E chi sarebbero questi pochi? I pochi sono quegli uomini che per superiorità intellettuale e culturale si elevano al di sopra dei concetti morali tradizionali. Bene e male, giusto e ingiusto, sono stati inventati per l'uomo ordinario, per l'essere primitivo che ne ha bisogno. Allora siete d'accordo con Nietzsche e la sua teoria del superuomo? Sì, io sì. E anche Hitler. Hitler era un paranoico, senz'altro. Ai suoi gregari, come a tutti i despoti, mancava il senso della misura, e questo è grave. Perciò sono finiti, soprattutto per essere stati troppo ingenui. La stessa sorte tocca agli incompetenti e agli sciocchi, e ce ne sono troppi al mondo. Giudicherete male anche me, perché sono così stupido da non capire se dite sul serio o no. Ma in ogni caso preferirei non sentire più il vostro, scusate, disprezzo per l'umanità e per le regole. È anche comprensibile che non lo abbiamo ancora rimosso bene oggi, tutto questo bagaglio di responsabilità collettiva nei confronti appunto del nazismo, del fascismo, e dicendo che al tempo si è voluto dare una giustificazione all'omicidio di questo ragazzo, perché senti, poi le teorie sono quelle, che abbiamo detto, anche abbastanza radicalmente semplificate, ma sono quelle. Però la perfidia meravigliosa di hitchcockiana è che queste teorie si consumano davanti a una prassi che si è già consumata, perché il cadavere c'è già, è lì, è davanti, è in primo piano, anche se interrato in una cassa. E addirittura la perfidia di Hitchcock ci mostra delle soggettive del cadavere. Alcune scene vengono osservate da dentro il baule. Come se il cadavere potesse vedere le persone che attorno a lui teorizzano un motivo per cui lui sia stato ucciso. Andiamo avanti con l'ascoltatore Manfredo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Lei voleva dire qualcosa al giorno che parlammo di male assoluto, di cattiveria assoluta, di cattivo per eccellenza, non abbiamo avuto tempo di farla parlare. Oggi ha ampia possibilità, ampia, qualche minuto di possibilità per poter dire cosa invece, da chi lei, secondo lei, ha rappresentato il male assoluto nel cinema. Ma per me uno dei mali assoluti del cinema è certamente Alex di Arancia Meccanica. La cattiveria, tra l'altro anche la bellezza cattiva di Malcolm McDowell, l'attore, che la trovo veramente perfetta in quel film, e non solo, anche in Evilenco di David Greco, e lui è veramente il cattivo secondo me per eccellenza. Non per niente è un film che è ancora ostracizzato a giro per il mondo. Allora fermiamoci un attimo, facciamo ascoltare un attimo una piccola clip di questo film, così ridiamo l'idea, riportiamo gli ascoltatori, anche perché è un film di qualche anno fa. Io per anni e anni mi sono mascherato da Arancia Meccanica Carnevale, ma io ho una certa età. Qualche problema, signore? Oh no! Guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda, guarda! Se non è il caro Alex, è un po' che non ci si vede. Come va? È impossibile! Non ci posso credere! No, non c'è né trucco né Ecco, Giuseppe Sanzona, questo è il momento in cui Alex diventa vittima dei suoi stessi ex compari di malefatte, che lo prendono e gliele faranno di tutti i colori. Poi sarà vittima del sistema che vuole rieducarlo, e quindi lo torturerà per rieducarlo. Ma è veramente un cattivo assoluto, come dice l'ascoltatore. E poi nella fase di rieducazione diventa quasi una vittima, quasi mi fa pena. Sì, subisce questa appunto cura Lodovico, che lo lobotomizza, lo sciacqua dall'interno, gli toglie tutte le velleità crudeli e il suo infierire sui deboli, che è la cifra di questi drughi che si alternano appunto fra delinquenza e poi polizia istituzionalizzata, quando dopo diventeranno poliziotti appunto e vesseranno anche il loro amico, come sentiamo in questa clip. Insomma, quindi sì, McDowell, la cifra estetica effettivamente, come notava l'ascoltatore, è decisiva a questo occhio quasi femmineo, seppur perverso, c'è un male non a caso epico. Stupra con una scultura fallica un succedaneo comunque della mascolinità, che ricorda il Circeo, ricorda tanti e terrificanti stupratori alle nostre latitudini. È esattamente un angelo caduto, ha i tratti di luciferini, un angelo con un qualcosa di perverso, con un'anima perversa che gli palpita dentro. Queste, e poi soprattutto adesso riascoltandola notavo la meraviglia della musica di Wendy Carlos, che crea questa sorta di dilatazione metallica di Beethoven e lo rende tetro. Sono in conclusione, ma lo trovi molto datato all'epoca in cui si produsse? Perché non c'è una grande memoria nelle generazioni successive. L'ascoltatore nostro lo ricorda con grande attenzione, fa parte del pubblico selezionato che ascolta Melo, quindi persone che si pongono alcune domande al di là delle mode. Oggi non vedo più tanto presente. Forse ci sono vampiri, zombie, pluriassassini, Freddy Krueger. Non ha più senso ci sia il vecchio protagonista di Arancia Meccanica. Perché tutto sommato aveva dei tempi dilatati e quindi poco adatti oggi al ritmo un po' da videoclip di cui si ha bisogno oggi per anche nella fruizione dei prodotti commerciali. E poi è un film duro, estremamente duro, perché non è consolatorio. Cioè, lo sguardo è da entomologo di Kubrick. Ma diciamoci la verità, rispetto ai moderni antieroi, collezionisti, gli squartatori tutti, che in 10 minuti di film massacrano e fanno a pezzi decine di persone, ben poco aveva fatto questo povero ragazzo. Beh, l'anno finirà per noi, finirà anche per voi, speriamo che il prossimo sia senz'altro migliore. Melog 2.0. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.